Capitolo 9. L'anno 1840 trovò tutti i Bronte, eccettuata Anna, in casa. Non sono al corrente del perché il progetto di mandare Bronwell alla Royal Academy di Londra fosse stato abbandonato. Probabilmente, fatte le debite indagini, si era capito che le inevitabili spese che comportava erano maggiori di quanto suo padre potesse affrontare, anche con l'aiuto dato in quel tempo da Charlotte, che insegnando da Miss Fuller provvedeva al mantenimento di Anne e alla sua educazione scolastica. Ricavo dall'insieme di quanto sentito dire che quando il progetto cadde, la delusione di Bronwell fu amara. Indiscutibilmente le sue doti erano molto brillanti, di ciò egli aveva piena coscienza e desiderava con ardore farsi un nome, sia dipingendo che scrivendo. Probabilmente si era reso conto che il suo smodato amore del piacere e le sue abitudini irregolari costituivano un impedimento sul cammino della fama. E questo era un ulteriore motivo per fargli bramare la vita di Londra, dove pensava di trovare nuovi stimoli per il vigoroso intelletto e contemporaneamente di avere quella piena libertà di azione che è possibile solamente nelle grandi città. Tutto in lui era attratto verso la metropoli. Mi è stato riferito un aneddoto che indica come egli abbia passato lunghe ore studiando una mappa topografica di Londra. Un viaggiatore di commercio di una ditta londinese si fermò a Haworth per una notte e, secondo la malaugurata abitudine del luogo, il brillante Patrick fu convocato alla locanda per animare la serata con la conversazione intelligente e le uscite spiritose. Lui e l'ospite di passaggio incominciarono a parlare di Londra, delle consuetudini, della vita nella metropoli, dei locali di divertimento e Bronwell indicò al londinese uno o due itinerari per attraversare la città da un'estremità all'altra prendendo scorciatoie lungo strette viuzze e vie secondarie poco frequentate. Fu solamente verso la fine della serata che il viaggiatore scoprì, per spontanea ammissione di Bronwell, che questi non era mai stato nella capitale. Era il tempo in cui sembrava che il giovane tenesse la sorte in pugno. Alle sue doti fuori del comune si aggiungevano i nobili slanci. Bisogna ammettere però che non era avvezzo a resistere alla tentazione, se non indotto dal forte attaccamento per i suoi, ai quali dimostrava tanto affetto da indurli a pensare compiacentemente che maturando si sarebbe messo sulla giusta via e allora essi avrebbero potuto inorgoglirsi di lui nel vederlo far uso degli splendidi talenti di cui era dotato. Era il prediletto della zia, quasi sempre l'unico maschio di una famiglia deve superare prove speciali. Ci si aspetta da lui che rappresenti una parte di spicco, che agisca mentre gli altri semplicemente sono. E per la necessità di cedere qualche volta, troppo spesso si cade nell'errore di cedergli in ogni occasione, facendone un irrimediabile egoista. Nella famiglia di cui sto scrivendo, mentre le donne vivevano in modo quasi ascetico, a Bronwell fu concesso di crescere nella mollezza. Il dono di attirare e sedurre negli anni della prima giovinezza in lui fu tale che pochi lo avvicinarono senza soggiacere all'impulso di accontentarlo in ogni suo desiderio. Ebbe l'elementare prudenza di nascondere al padre e alle sorelle quali fossero i piaceri a cui si abbandonava fuori casa, ma l'impronta del pensiero, il tono della conversazione andarono involgarendosi. Le sorelle pensavano che quello fosse segno di nascente virilità, lo scambiavano per naturale ruvidezza e, accecate dall'affetto, non si accorgevano di quanto Bronwell fosse peggiore di tanti altri giovanotti. Costrette a rendersi conto di alcuni degli errori in cui cadeva, non ne capivano la gravità e il fratello continuava a essere la loro speranza, il loro tesoro, il loro orgoglio, colui che in processo di tempo doveva dar lustro al nome dei Bronte. Tanto lui quanto Charlotte erano snelli di bassa statura, mentre le altre due sorelle erano più alte e avevano un personale più corposo. Ho visto un profilo di Bronwell, presenta allineamenti molto belli, fronte massiccia, occhi bene inseriti, espressione piacevole e intelligente, anche il naso ha un bel disegno. Ma al lato della bocca vi sono pieghe grossolane. Le labbra, benché ben modellate, sono molli e pesanti, indicano intemperanza, mentre il mento leggermente sfuggente dà un'impressione di debolezza. Il colore dei capelli, la carnagione, sono fulvi. Il sangue irlandese che gli veniva dal padre gli dava modi aperti e cordiali improntati a una certa galanteria. Nel frammento di un suo manoscritto mi hanno vivamente colpita l'esattezza e la felicità dell'espressione. Nei personaggi che vi sono delineati si nota molta della grazia che colpisce nel ritratto di lui. La lingua è perfettamente semplice e pura, degna degli articoli firmati da Edison nello Spectator. Quel frammento è troppo corto per permettere di giudicare se egli ebbe vero talento drammatico, visto che i personaggi non dialogano, ma nell'insieme l'eleganza e la compostezza dello stile sono tali che nessuno se li aspetterebbe dalla penna di quel giovane dal triste destino. Tentò varie vie di uscita, scrisse poesie, le inviò a Wordsworth e a Coleridge, che espressero giudizi gentili e lusinghieri, senza far altro. Contribuì frequentemente coi suoi versi al Leeds Mercury. Nel 1840 viveva in famiglia e si impegnava in composizioni di vario genere in attesa che gli si presentasse l'occasione di un qualche impiego adatto a chi, come lui, non aveva conoscenze specifiche. Aspettava, senza impazienza, frequentando una società del tutto particolare all'Osteria del Toro Nero. Intanto, in casa, era ancora l'amatissimo prediletto. Miss Bronwell non si rendeva conto del fermento di talenti inutilizzati che le maturavano intorno. Non era la confidente delle nipoti, forse nessuno con tanti anni più di loro avrebbe potuto esserlo, ma il padre, dal quale avevano ereditato buona parte del loro spirito avventuroso, registrava silenziosamente ciò che la zia non notava. La sua prediletta, subito dopo il nipote, era la docile e pensosa Anne. L'aveva tirata su lei fin dalla più tenera età. Aveva un'indole paziente, era trattabile, si sottometteva quietamente a una occasionale costrizione, anche se ne soffriva acutamente. Le due sorelle maggiori non si comportavano così. Se una qualche supposta ingiustizia ve le induceva, protestavano apertamente. In quei tempi Emily era ancora solita esprimersi con lo stesso impeto di Charlotte, pur facendolo forse con minore frequenza, però generalmente, anche se in certe occasioni Miss Branwell e la zia poteva mostrarsi poco ragionevole, lei e le nipoti convivevano con sufficiente serenità. Benché queste ultime in certe circostanze fossero infastidite da atteggiamenti di meschina tirannia, rispettavano sinceramente la zia e nutrivano per lei un certo affetto. Sapevano di doverle molte delle abitudini della vita quotidiana che erano diventate una seconda natura per loro. Metodo, precisione, perfetta pratica di tutte le faccende domestiche, esatta e puntuale obbedienza alle leggi del tempo e dello spazio. Come mi disse Charlotte molti anni dopo, avevano poi potuto valutare l'inestimabile valore di questi insegnamenti, poiché, tenendo conto delle loro indoli impulsive, era una vera ancora di salvezza l'avere appresa la necessità di conformarsi alle leggi esteriori. Vi sono persone in Haworth che mi hanno assicurato che secondo l'ora, anzi addirittura al minuto, erano in grado di dire a quale occupazione le ospiti della canonica fossero intente. A tempo dato, le ragazze cucivano nella camera da letto della zia, stanza che era stata la loro sala da studio finché ella aveva avuto qualcosa da insegnare. Prendevano i pasti piuttosto presto. Dalle 18 alle 20 Miss Bronwell leggeva ad alta voce a Mr. Bronte. Puntualmente alle 20 la famiglia si riuniva nello studio di lui per la preghiera della sera e alle 21 lui, la zia e Tabby erano a letto. E le ragazze erano libere di passeggiare, come inquieti animali selvatici, avanti e indietro nel salotto, dando libera espressione ai loro pensieri e facendo progetti per il futuro. Nell'epoca di cui scrivo, il progetto preferito era quello di aprire una scuola. Pensavano che con un po' di fantasia e con l'aggiunta di una piccola costruzione, un modesto numero di alunne, diciamo da 6 a 10, poteva essere accolto nella canonica. Visto che l'insegnamento sembrava essere l'unica professione a cui potevano accedere, e siccome, in base alle esperienze fatte, avevano verificato che tutte soffrivano lontano da casa ed Emily addirittura non poteva vivere senza la vicinanza della brughiera, era senz'altro il più adatto, ma richiedeva un certo impiego di capitale e a questo la zia era assolutamente contraria. Eppure era l'unica persona a cui si potevano rivolgere per ottenere la somma necessaria. Economizzando sulla rendita vitalizia di cui godeva, si era costituita un piccolo capitale che destinava ai 4 nipoti, ma che non voleva arrischiare in quell'impresa. Quel progetto rimaneva in cima ai pensieri di Charlotte e di Emily, e nelle serate del 1839-40 Le loro conversazioni vertevano principalmente sui cambiamenti da fare in casa e sul miglior modo di convincere la zia della saggezza del loro piano. L'ansietà gravò pesantemente su di loro durante i mesi di quel buio e aspro inverno. Nella cerchia delle loro amiche non avvenne nulla degno di nota. Nel gennaio del 1840 Charlotte fu informata della morte di una sua giovane alunna, ex compagna di Anne a Rowhead. Le due ragazze si erano molto attaccate l'una all'altra. E la notizia di quella morte fu causa di grande tristezza. Il 12 gennaio 1840 Charlotte scrive: «La tua lettera giuntami stamane ci ha portato una gran pena. Dici che Anne, sì, è morta. Quando la vidi l'ultima volta era una bella e felice fanciulla. Ora la capricciosa febbre della vita è spenta in lei ed ella dorme tranquilla. Non l'incontrerò mai più. Oh, è un pensiero doloroso. Era un'affettuosa creatura, dal cuore caldo, io le volevo bene. Dovunque la cerchi, ormai in questo mondo non la potrò trovare più di quanto mi sia possibile trovare un fiore o una foglia che appassirono 20 anni fa. Una perdita come questa fa capire quale dolore soffrano coloro che si vedono cadere intorno un amico dopo l'altro, finché rimangono sole a compiere il loro pellegrinaggio. Ma le lacrime non danno frutto e io tento di non abbandonarmici». Durante quell'inverno Charlotte impiegò i ritagli di tempo libero a scrivere una storia. Alcuni frammenti di quel manoscritto sono giunti fino a noi, vergati in caratteri così minuti da non poter essere decifrati senza grande sforzo, e il desiderio di farlo passa dopo aver letto la prefazione di The Professor, il suo primo consistente sforzo letterario, dove ripudia quanto scritto in passato, annunciando di aver superato il cattivo gusto che l'aveva indotta a indulgere nell'ornamentale e nel ridondante. All'inizio quella storia, come lei stessa ammette, avrebbe dovuto adeguarsi alla struttura di un romanzo di Richardson, calcolato in 7 o 8 volumi. Spigolo alcuni di questi particolari dalla copia di una lettera scritta a quanto pare in risposta a una missiva di Wordsworth, al quale aveva inviato l'inizio di qui sopra, in un giorno non precisato dell'estate 1840. Gli autori generalmente sono assai attaccati alle loro produzioni. Ma io non sono tanto attaccata a questa da non potervi rinunciare senza grande rammarico. Se avessi continuato, ne avrei fatto senza dubbio qualcosa di molto richardsoniano. Avevo in mente materiale sufficiente per almeno una mezza dozzina di volumi. Naturalmente è con un rimpianto tutt'altro che trascurabile che rinuncio a svolgere un tema attraente come quello di cui ho buttato giù lo schema. È assai utile e edificante dar vita a un mondo creato dalla propria mente e popolarlo con abitanti che sono altrettanti Melchisedechi, interamente concepiti dalla nostra immaginazione. Rimpiango di non essere vissuta 50 o 60 anni fa, quando il Ladies Magazine prosperava come un verde albero di alloro. In quel tempo, non ne dubito, la mia aspirazione alla fama letteraria avrebbe incontrato il debito incoraggiamento e avrei avuto il piacere di presentare i signori Percy e West alla migliore società, per poi consegnare per iscritto tutto quanto facevano e dicevano su pagine a 2 colonne di fitti caratteri di stampa. Ricordo che quando ero bambina, se riuscivo a mettere le mani su qualche vecchio volume, lo leggevo nascostamente col più grande piacere. Lei fa una corretta descrizione delle pazienti griselde di quei giorni. Mia zia fu una di loro e ancora oggi pensa che i racconti del Ladies Magazine siano infinitamente superiori a qualsiasi sconsiderato moderno scartafaccio letterario. Così faccio anch'io, poiché li lessi nell'infanzia e l'infanzia possiede una grandissima facoltà di ammirazione e un debole senso critico. Mi piace l'idea che lei non capisca se io sia la segretaria di un notaio o una sarta dedita alla lettura di romanzi. Non intendo aiutarla a scoprirlo. In quanto alla mia grafia o quel non so che nello stile e nella scelta delle immagini che suggeriscono la gentildonna, lei non deve prenderle in considerazione. Potrei impiegare un amanuense. Scherzi a parte, signore, le sono obbligatissima per la sua gentile, candidamente sincera lettera. Quasi mi meraviglio che lei si sia dato il disturbo di leggere e di prestare attenzione al romanzetto di un anonimo scriba che non ha nemmeno la correttezza di dirle se è di sesso maschile o femminile e se le iniziali CT stiano per Charles Timms o per Charlotte Tomkins. Ci sono due o tre cose degne di nota nella lettera da cui ho estratto quanto sopra. La prima è costituita dalle iniziali con cui evidentemente aveva firmato lo scritto cui facenno. In quel tempo, con le più intime corrispondenti, a volte si firmava Charles Thunder, mettendo insieme una specie di pseudonimo, mascolinizzando il proprio nome di battesimo e interpretando dal greco il cognome. In secondo luogo, vi si nota un che di ostentato brio, assai diverso dallo stile improntato a femminile dignità della lettera indirizzata a South i 3 anni addietro, in una circostanza pressoché simile. Immagino una duplice causa per la diversità di tono. Southey, invitandola a considerare se la carriera letteraria fosse o meno appropriata per una donna, aveva fatto appello a quanto vi era di più elevato nel suo carattere. Invece la persona alla quale aveva scritto quanto sopra si era evidentemente limitata a una pura e semplice critica negativa. Inoltre il suo senso dell'umorismo era stato sollecitato dalla perplessità circa la sua vera natura, espresso dal corrispondente, che esitava a attribuirle sesso maschile o femminile. Preferiva incoraggiare la prima supposizione, che l'aveva indotta a imitare la spregiudicata vivacità propria al fratello quando conversava senza inibizioni. Inevitabilmente derivava da lui l'idea che si faceva sulla gioventù maschile, ben poco modificata, specialmente per quanto concerneva la raffinatezza dei modi, da altri esemplari del genere che le erano familiari, coi curati fortemente legati all'alta chiesa d'Inghilterra. Battaglieri per natura, conveniva al loro carattere professionale avere, in quanto ecclesiastici, motivo sufficiente per dar libero sfogo all'impulso bellicoso che li animava. Mister Bronte, nonostante la sua calda considerazione per la Chiesa ufficiale e per lo Stato, aveva un grande rispetto per la libertà dello spirito. Pur essendo l'ultimo degli uomini che occultasse il proprio pensiero o le proprie opinioni, rispettava quelle degli altri, viveva in ottimi rapporti con quelli che dissentivano da lui, purché fossero persone rispettabili e in buona fede. Non così i curati. Secondo loro il dissenso era scisma e lo scisma era condannato dalla Bibbia. In difetto di saraceni in turbante, partivano in crociata contro i metodisti in panni talari e a loro volta i metodisti e i battisti della parrocchia rifiutavano di pagare le decime alla Chiesa. Miss Bronte descrive lo stato delle cose a quel tempo come segue. Da quando sei stata qui, la piccola Haworth è stata messa sottosopra dalle divergenze sul pagamento delle decime ecclesiastiche. C'è stata una riunione agitata nella scuola. Papà ha occupato il seggio di presidente e Mr. C e Mr. W gli hanno fatto da sostenitori, l'uno da una parte, l'altro dall'altra. L'opposizione è stata violenta e ha messo il sangue irlandese di Mr. C in fermento. Se papà non lo avesse trattenuto, parte con la persuasione, parte con la forza, avrebbe dato ai dissenzienti il loro cavolo nel puzzo, proverbio scozzese che ti spiegherò un'altra volta. Lui e Mr. W sul momento hanno imbottigliato la loro collera e indignazione, ma questa doveva esplodere con raddoppiato vigore alla successiva occasione. Abbiamo sentito due prediche domenica scorsa, una sul dissenso, l'altra sulle sue conseguenze, e di pomeriggio da Mr. W e di sera da Mr. C. I dissenzienti erano stati invitati a venire, hanno chiuso le loro cappelle e si sono presentati in formazione compatta. Naturalmente la nostra chiesa era affollata. Mr. W fece un discorso nobile ed eloquente, dimostrando che la High Church deriva direttamente dalla successione apostolica. E Tetragono diede impavidamente un bello scossone ai dissenzienti. Pensai che questi per quel giorno avessero incassato più che a sufficienza quel che spettava loro, invece era stato un nulla rispetto a quanto dovettero ascoltare la sera. Non avevo mai udito prima di allora un'arringa più puntuale, più intelligente, più ardita e meglio adatta a colpire dritto al cuore di quella che sì declamò dal pulpito di Haworth domenica sera scorsa. Non tuonò, non fu settario, non implorò, non fu altezzoso, semplicemente torreggiò, parlando con l'ardire di uno che è sicuro dell'assoluta verità di quanto va dicendo, libero dal timore di farsi dei nemici, senza preoccuparsi delle possibili conseguenze. La predica durò un'ora intera, eppure, quando giunse alla fine ne fui spiacente. Non dirò di concordare con lui o con Mr. W. In tutto e nemmeno nella metà di quanto dissero. Dal punto di vista del senso comune, li considero bigotti, intolleranti e interamente inaccettabili. La coscienza non mi permette di essere né dalla parte di Pusey né da quella di Hook. Me Se fossi dissenziente avrei colto la prima occasione di prendere a calcio e di fustigare ambedue quei signori per la loro severa, amara aggressione contro il mio credo religioso e coloro che lo insegnano. Ma a dispetto di tutto ciò, ho ammirato la nobile integrità che li ha indotti a esprimere una così impavida opposizione verso un avversario tanto forte. Postscriptum. Mr. W. ha fatto un'altra conferenza a Keighley e anche papà ne ha fatta una. Nei giornali si parla con grande apprezzamento di ambedue e si considera cosa degna di suscitare sorpresa che una simile dimostrazione di alto livello intellettuale venga da un villaggio quale Haworth, situato fra pantani e montagne e fino a poco tempo fa sprofondato in una condizione di semibarbarie. Queste sono le parole dei giornali. Per completare il resoconto di quest'anno, quasi privo di avvenimenti, posso aggiungere alcuni brani stralciati dalle lettere che mi sono state affidate. 15 maggio 1840. Non abbandonarti alla persuasione di poter sposare un uomo che non sei in grado di rispettare, non dico di amare, perché penso che se puoi rispettare una persona prima del matrimonio, in seguito può sempre nascere un amore moderato. Per quel che riguarda l'intensa passione, penso che non sia mai desiderabile. Per prima cosa non è quasi mai contraccambiata. E se lo fosse, l'intensità del sentimento sarebbe temporanea, durerebbe il tempo della luna di miele per cedere poi al disgusto o all'indifferenza, forse ancora peggiore del disgusto stesso. Questo sarebbe certamente il caso da parte dell'uomo, in quanto alla donna, Dio l'aiuti, se continuasse ad amare appassionatamente da sola. Sono praticamente persuasa che non mi sposerò mai. Me lo dice la ragione e io non sono tanto schiava del sentimento da non saperne udire la voce ogni tanto. 2 giugno 1840. M non è ancora venuta a Haworth, ma verrà a condizione che prima vada io da lei per alcuni giorni. Se non nascerà una qualche difficoltà, andrò da lei mercoledì prossimo. Potrei fermarmi a G fino a venerdì o sabato e passerei la prima parte della settimana con te se mi vuoi. Queste ultime parole sono un vero di più, visto che so che come io sarò lieta di vedere te, così sarai tu di vedere me. Questa combinazione non ci offrirà molto tempo per stare insieme, ma tutto sommato è l'unica possibile. Non insistere per farmi restare più di 2 o 3 giorni, perché sarei costretta a rifiutare. Penso di andare a piedi fino a Keighley e da lì prendere la corriera fino a B, e poi, trovando qualcuno che mi porti il baule, proseguirei a piedi fino a G. Se riuscirò a combinare così le cose, ce la farò benissimo. Dovrei arrivare a B verso le 17, così godrei della frescura della sera durante la passeggiata. Ho messo M al corrente del progetto. Desidero estremamente vedere sia lei che te. Addio. Se hai un piano migliore da suggerire, sono pronta a lasciarmi convincere, purché sia attuabile. 20 agosto 1840. Hai avuto occasione di vedere Miss H ultimamente? Vorrei che i suoi o chiunque altro mi trovassero un impiego. Ho risposto a un numero senza fine di annunci, senza avere successo. Ho ricevuto un altro grosso pacco di libri francesi da G, più di 40 volumi. Ne ho letti circa metà. Sono, come al solito, intelligenti, perversi, sofisticati e immorali. Il meglio del loro contenuto consiste nel fatto che danno una completa idea della Francia e di Parigi e sono l'unica alternativa che ho alla impossibile conversazione in francese. Non ho assolutamente altro da dirti perché mi trovo in una condizione di ebetudine. Mi scuserai se questa lettera non è lunga come la tua. Ho voluto risponderti senza por tempo in mezzo perché tu non abbia ad aspettare invano il postino. Conserva questo scritto come curiosità grafica. A me sembra squisito. Tutto lucenti macchie nere e caratteri assolutamente illeggibili. Calibano. Il vento soffia dove vuole. Tu ne odi la voce, ma non sai dire né da dove venga né dove vada. Queste parole sono, credo, della Sacra Scrittura, benché non sappia dire da quale capitolo e nemmeno da quale libro siano prese, né se sono correttamente citate. Tuttavia, mi inducono a scrivere una lettera a una giovanetta di nome E, con cui fui in relazione, lungo il cammino mattutino della vita, quando il mio spirito era giovane. Questa giovane donna, qualche tempo fa, espresse il desiderio che io le scrivessi, anche quando non avevo nulla da dire. Io, tuttavia, di giorno in giorno rimandai di farlo, finché, temendo che ella finisse col maledirmi per i suoi dèi, mi sono sentita costretta a buttar giù poche righe che lei potrà, a piacer suo, definirono lettera. Tuttavia, se la giovane donna si aspetta di trovare senso comune in questa mia elucubrazione, proverà una miseranda delusione. Le preparerò un piatto di salmagundi, cucinerò un intruglio, metterò insieme uno stufato, farò saltare in padella un'omelette soufflé alla française e le spedirò il tutto con i miei rispetti. Il vento che soffia molto alto sui nostri monti della Giudea, benché suppongo che non meriti farne menzione giù nelle pianure filistee della parrocchia di B, penetrando nella scatola dove ripongo le mie nozioni, ha messo scompiglio. Vedo tutto color rosa e mi sento fortemente indotta a ballare una giga, ma non so come si fa. Penso che io debba avere in me qualcosa della natura del maiale o dell'asino, visto che questi due animali sono festosamente eccitati dal vento impetuoso. Da che parte oggi soffi il vento non sono in grado di dirlo, non ci sono mai riuscita da quando sono venuta al mondo, ma mi piacerebbe assai sapere come la grande tinozza della baia di Bridlington stia funzionando e che genere di spuma schiumante si alzi proprio ora sulle onde. Una tale chiamata Mrs. B ha, a quanto sembra, bisogno di un insegnante. Spero che mi accetti. Ho scritto a Miss Fuller per informarla. A dire il vero, è una cosa deliziosa vivere qui a casa, libera di comportarmi a mio piacimento. Ricordo un'insignificante vecchia favola che mette in scena cicale e formiche, narrata da un insignificante vecchio schiavo chiamato Esopo. Le cicale cantarono tutta l'estate e tutto l'inverno morirono di fame. Un mio lontano parente, un certo Patrick Bronwell, è partito a cercar fortuna lontano, in qualità di avventuroso, errante, romantico e selvaggio impiegato della ferrovia tra Leeds e Manchester. Leeds e Manchester? Dove mai si trovano? Città in lande selvagge come Tadmor o Palmira o no? Ultimamente sono venuta a conoscenza di un fatto a proposito di Mr. W che mette in luce il lato migliore del suo carattere. Sabato scorso, di sera, si era trattenuto con papà in sala per più di un'ora e udii papà che gli chiedeva: «Cos'ha? Mi sembra molto abbattuto». «Oh, non saprei», rispose. «Sono andato a visitare una povera ragazza che temo stia per morire». «Davvero? Come si chiama?» «Si chiama Susan Bland, figlia del sovrintendente John Bland». Orbene, Susan Bland è la mia più antica e migliore alunna della scuola domenicale, e così, avendo udito quelle parole, decisi di andarla a trovare quanto prima. Mi recai da lei il lunedì e la trovai avviata verso quella soglia da cui nessun viaggiatore torna indietro. Dopo essere rimasta alquanto con lei, chiesi per caso a sua madre se pensava che un po' di vino di Porto le potesse far bene, e lei rispose che il dottore glielo aveva consigliato e che, quando Mr. W era stato da loro l'ultima volta, aveva portato una bottiglia di vino e un vasetto di marmellata. Aggiunse che era sempre buono e gentile con gli umili e che sembrava davvero pieno di sentimento e di cuore. Senza dubbio il suo carattere non è senza difetti, ma in lui vi sono anche buone qualità, Dio lo benedica. Mi chiedo chi, con i suoi pregi, potrebbe essere senza difetti. So di molte sue azioni sbagliate, conosco molte sue debolezze, tuttavia in me troverà sempre una persona pronta a difenderlo, non a metterlo in stato d'accusa. Certo, la mia opinione non servirà a cambiare il suo carattere, ma che importa? Si deve agire bene fin dove ne siamo capaci. Da quanto ti dico, non devi giungere alla conclusione che Mr. W e io siamo in buoni rapporti, non lo siamo affatto. Ci manteniamo distanti, freddi e riservati. Ci rivolgiamo di rado la parola e quando lo facciamo è solo per scambiare le espressioni più banali. La Mrs. B, alla ricerca di una governante di cui si fa cenno nella lettera qui sopra riportata, entrò in corrispondenza con Miss Bronte e si dichiarò molto soddisfatta delle lettere che ne riceveva, dallo stile e dal candore con cui sollecitava l'impiego. Charlotte si era premurata di farle sapere che se desiderava una persona di bell'aspetto, elegante alla moda, lei non era adatta al posto che le veniva offerto. Mr. B, però, desiderava che la governante fosse in grado di insegnare musica e canto, discipline che Charlotte ignorava, perciò le trattative ebbero esito negativo. Ma Miss Bronte non era persona da lasciarsi scoraggiare da una delusione. Per quanto le dispiacesse, la vita di governante era suo dovere sollevare il padre dal peso di mantenerla, e quella era l'unica possibilità di guadagno che le fosse offerta. Così, con rinnovato vigore, riprese a informarsi e a fare inserzioni con richieste di impiego. Nel frattempo si produsse un piccolo incidente, lo descrive in una sua lettera e lo riferirò visto che serve a dare un'idea della sua istintiva avversione verso una data categoria di uomini sui cui vizi alcuni hanno creduto posasse uno sguardo indulgente. Il brano che stralcio dice tutto quanto è necessario sapere per raggiungere lo scopo che mi propongo presentando la spregevole coppia di cui parla Charlotte. Ricordi, Mr. e Mrs. Mrs. Venne da noi giorni fa con una melanconicissima storia dei disgraziati trascorsi di quel suo marito stravagante, vizioso e ubriacone. Chiese consiglio a papà, disse che l'unica loro prospettiva era una totale rovina. Avevano debiti che assolutamente non potevano pagare. Prevedeva che a mister, da un momento all'altro verrebbe revocato l'incarico di curato. Per amara esperienza sapeva che il suo vizio era ormai inguaribile, trattava lei e il figlioletto con violenza selvaggia e aggiunse molte altre cose del genere. Papà le consigliò di separarsi definitivamente dal marito e di tornare dai suoi, se aveva una famiglia presso cui rifugiarsi. Rispose che già da tempo aveva deciso di farlo e che lo avrebbe lasciato appena il parroco, Mr. Billy, avesse dato il benestare. Si espresse con estremo disgusto e disprezzo verso di lui e non diede a vedere di conservare una benché minima considerazione per il marito. Non me ne sorprendo, ma mi meraviglio di come abbia potuto sposare un uomo verso il quale deve aver provato sempre, su per giù, i sentimenti che nutre ora. Sono certa che una donna decente possa sentire solamente avversione per un uomo quale è Mr. Prima che io conoscessi o sospettassi il suo vero essere, pur meravigliandomi dei suoi versatili talenti, lo intuivo e ne ero fortemente respinta. Mi costava rivolgergli la parola, mi ripugnava guardarlo, pur considerando assurda quella totale antipatia che accettavo in base a una semplice impressione istintiva, senza trovarle un valido motivo. Nascondevo, reprimevo la mia ripugnanza quanto meglio potevo e in ogni occasione lo trattavo con tutta la possibile cortesia. Mi colpì udire Mary esprimere una repulsione simile alla mia, provata a prima vista. Appena fummo sole, mi disse: «È un uomo odioso, Charlotte!» E io pensai: «Davvero lo è?»